Il terzo anello ad alta voce, I mandarini di Simone de Beauvoir. Il giorno del comizio dell'SRL ero piuttosto inquieta. Erano anni che Robert non parlava più in pubblico. Gli sarebbe riuscito di persuadere la gente come una volta? Era sconcertante vedere tutti quei visi familiari trasformati in personaggi ufficiali. Che ovazione! S'era appena alzato che già la gente s'era messa a battere le mani e i piedi gridando. Lui aspettava con aria paziente e mi chiedevo se fosse commosso. Io ero commossa. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, sempre l'avevo visto chino sulla sua scrivania, gli occhi arrossati, le spalle curve, solitario e dubitoso di sé. Lo stesso uomo che queste 5.000 persone acclamavano. Chi era precisamente per loro? A un tempo il grande scrittore e l'uomo dei comitati di vigilanza, dei comizi antifascisti. Un intellettuale che s'era votato alla rivoluzione senza rinnegarsi come intellettuale. Per i vecchi rappresentava l'anteguerra, per i giovani il presente e le sue promesse. Realizzava l'unità del passato e dell'avvenire. E probabilmente era mille altre cose ancora. Ciascuno l'amava a suo modo. Finalmente gli applausi tacquero e subito fummo presi. Robert parlava senza enfasi, con una logica così stringente da somigliare a una violenza. Non proponeva un programma, ci dettava dei compiti. Compiti così urgenti che non si poteva mancare di assolverli. La vittoria era garantita dalla sua stessa necessità. Intorno a me la gente sorrideva, gli occhi brillavano. Ciascuno riconosceva sul viso dei propri vicini la sua stessa certezza. No, questa guerra non sarebbe stata vana. Gli uomini avevano capito quanto costino la rassegnazione e l'egoismo. Avrebbero preso il proprio destino in pugno. Avrebbero fatto trionfare la pace. Avrebbero conquistato attraverso tutta la terra la libertà e la felicità. Era chiaro, era sicuro. Era una questione del più semplice buonsenso. L'umanità non poteva volere altro che pace, libertà, felicità. E chi avrebbe potuto impedire di fare quel che voleva? Era sola a regnare sulla terra. Attraverso tutto il discorso di Robert era l'evidenza stessa ad abbagliarci. E quando tacque, quella che applaudimmo era la stessa verità. M'asciugai col fazzoletto le palme madide. La pace era sicura, l'avvenire garantito. Il futuro prossimo faceva tutt'uno con quello più lontano. Saint-Mazel parlò per ultimo. Si mise subito a gesticolare, a tuonare, un imbonitore da fiera. Mi ritrovai seduta nella mia poltrona in mezzo a una folla ugualmente passiva che si beava di parole. Non erano né promesse né presagi, nient'altro che parole. 10 anni prima avevo visto la stessa beatitudine sugli stessi visi attenti e non aveva servito a impedire Varsavia, Buchenwald, Stalingrado, Oradour. Sì, tutti sanno quanto costino la rassegnazione e l'egoismo, ma l'hanno saputo sempre e senza nessun profitto. Non si è mai riusciti a fermare la sventura, non ci si riuscirà tanto presto e in ogni caso non presto abbastanza perché noi si possa vederlo. Quanto a quello che accadrà più tardi, in fondo a questa lunga preistoria, dobbiamo confessarci di non saperne niente. L'avvenire non è sicuro, né quello prossimo, né quello più lontano. Guardai Robert. Era la sua stessa verità quella che si rifletteva in tutti questi occhi. Anche altri lo guardavano. Dall'America, dall'Unione Sovietica, dal fondo dei secoli. Cosa vedevano? Forse nient'altro che un vecchio sognatore, dai sogni poco seri. Ed è forse così che si vedrà lui stesso domani. Penserà che la sua azione non è servita a niente, o peggio, che è servita a ingannare la gente. Se soltanto potessi decidere, non c'è verità. Ma ce ne sarà una. La nostra vita è là, pesante, come una pietra, e ha un rovescio che noi non conosciamo. È pauroso. Ero sicura questa volta di non delirare. Non avevo bevuto, non faceva notte, ma la paura mi soffocava. «Siete contenti?» chiesi con aria disinvolta. Henri era contento. «È un successo!» disse allegramente. Saint-Mazel diceva «È un trionfo!» Ma Robert borbottò. «Un comizio non prova granché!» 10 anni prima, uscendo dalla Salle Pleyel, non aveva detto niente del genere. Era parso raggiante. Eppure a quell'epoca pensavamo che la guerra avrebbe finito per scoppiare. Perché allora eravamo così sereni? Ah, avevamo ancora del tempo davanti a noi. Di là dalla guerra incombente indovinavamo il crollo del fascismo e i sacrifici che questo avrebbe costato ci parevano già superati. Ora Robert sentiva pesare l'età. Aveva bisogno di certezze a più breve scadenza. E nei giorni che seguirono fu tutt'altro che allegro. Nadine e Lambert tornarono pochi giorni dopo e per me questo ritorno fu una felice diversione. Erano abbronzati, ridenti e imbarazzati come sposi novelli. Nadine sarebbe un reporter di prim'ordine, diceva Lambert. Per intrufolarsi dappertutto e far parlare la gente è terribile. Certe volte è un mestiere divertente, diceva Nadine senza sforzarsi di nascondere la propria soddisfazione. Ma quel che la rendeva più fiera era d'aver trovato, tornando, la casa di campagna che io avevo sempre sognato. Una casa a 30 chilometri da Parigi, di cui amai subito la facciata gialla dalle persiane turchine, il giardino incolto, il piccolo padiglione, le rose selvatiche. Anche Robert ne fu sedotto e firmammo il contratto. L'interno era scalcinato, i viali pieni d'ortiche, ma Nadine dichiarò che si incaricava lei di rimettere tutto in ordine. Si disinteressò ad un tratto del suo posto di segretaria e andò ad accamparsi con Lambert nel padiglione. Dividevano il loro tempo tra la redazione del loro libro, il giardinaggio e la pittura murale. Nadine tornava ogni tanto a Parigi, ma fu solo alla vigilia della nostra partenza per l'Auvergne con Henri che ci permise di andare a Saint-Martin. Per telefono ci invitò pomposamente a pranzo. «Dì a papà che ci sarà una mayonnaise, è la specialità di Lambert». Ma Robert declinò l'invito. Quando Lambert mi vede, si sente in dovere di attaccarmi. Io sono costretto a rispondergli e tutti ci annoiamo, io per primo. Era vero che in presenza di Robert, Lambert diventava sempre aggressivo. Ma erano rari quelli che non si credevano obbligati ad assumere un atteggiamento davanti a Robert. In fondo, com'è solo, pensai. Non era mai a lui che la gente parlava, ma a un personaggio inamidato, lontano, senza verità, che aveva in comune con lui soltanto il nome e dell'uomo in carne e ossa che Robert era davvero, con le sue risate, le sue tenerezze, le sue collere, le sue insonnie. Nessuno se ne curava. Il giorno fissato, tuttavia, insistei di nuovo perché venisse anche lui. «No, t'assicuro che sarebbe una serata spiacevole», disse. «Nota che io non ho antipatia per Lambert. E dovete riconoscere che per Nadine ha fatto molto. È la prima volta che lei accetta di lavorare in collaborazione con qualcuno». «Eccoti un po' rassicurata sulla sorte di tua figlia», disse Robert posandomi una mano sulla spalla. «Sì. Allora cosa aspetti per dare una risposta a Romieux? Non hai più la minima ragione di esitare». Era un pezzo che non vedevo Nadine così raggiante. Giocare a far la padrona di casa la divertiva. Tra le insalatiere e i piatti di carne fredda, Lambert sistemò una gran tazza di mayonnaise ferma e untuosa e vuotammo sotto gli occhi di Nadine una bottiglia di vino bianco. Mi spiegavano con entusiasmo i loro progetti. Prima il Belgio, l'Olanda, la Danimarca, tutti i paesi occupati, poi il resto dell'Europa. «E dire che avevo deciso di lasciare il giornalismo», disse Lambert. «Senza Nadine l'avrei sicuramente lasciato. Del resto, lei ha molta più disposizione di me. Presto non vorrà più che l'accompagni». «È per questo che non vuoi lasciarmi guidare il tuo catenaccio», gemé Nadine. «Eppure non mi sarebbe difficile». «Non ti sarebbe difficile di romperti il collo, specie di pazza?» Le sorrideva dal fondo dell'anima. Lambert e Nadine avevano molte cose in comune. Il loro passato, la loro gioventù, il loro rancore contro le idee e le parole, i loro sogni d'avventura, le loro ambizioni incerte. Forse avrebbero saputo darsi fiducia a vicenda, inventarsi delle imprese, dei successi, una felicità. 19 anni, 25 anni. Non erano dei sopravvissuti loro. E che avvenire giovane avevano. «E io?» pensai. «Sono davvero sepolta viva nel passato?» Mi risposi di no. Di no. Con passione. Nadine e Robert potevano fare a meno di me. Io ero vittima della mia sola viltà. E questa ad un tratto mi faceva vergogna. «Sì?» Quella sera stessa avrei risposto di sì. Sopravvivere, dopo tutto, è ricominciare ogni momento a vivere. E io sperai che avrei saputo ancora. Henri pedalava mollemente attraverso la foresta. Aveva lasciato che i Dubreuil andassero avanti ed era solo quando arrivò sulla radura. Anne e Dubreuil erano scesi di bicicletta e guardavano qualche cosa. Henri li raggiunse e vide che erano delle croci. Croci bianche, senza nome, senza fiori. Il Vercors. Questa parola d'un colore d'oro brunito, d'un colore di paglia e di cenere, rude e secco come una petraia, ma pieno d'una freschezza montana, non era più il nome d'una leggenda. Il Vercors. Era il paese dalle montagne rossastre, dalle foreste trasparenti, dove il solleone faceva spuntare ruderi e croci. Ripresero a salire in silenzio. In cima al colle scorsero il gran pianoro che arrostiva nudo sotto il sole. E come in ogni altra pianura di Francia c'erano fattorie, borgate, villaggi, ma né tegole né ardesie, non un tetto, soltanto muri. Muri ad altezze diverse, capricciosamente scheggiati, e che non racchiudevano niente. Restarono un poco immobili, poi presero a scendere con prudenza il sentiero sassoso flagellato dal sole. Da 8 giorni parlavano di Hiroshima, enunciavano cifre, scambiavano frasi il cui senso era spaventoso, e niente ancora s'era mosso in loro. Ma ad un tratto, ecco, bastava un colpo d'occhio, e l'orrore era là, il loro cuore s'arrestava. Dubreuil frenò bruscamente. «Cosa succede?» Attraverso le brume che tremavano sul villaggio, una tromba suonava. Henri si fermò e vide ai piedi del colle, sulla strada maestra, una processione di autocarri militari, di auto blindate, di automobili, di calessi. «È una festa militare», disse. «Si direbbe che stia per finire». «Filiamo a destra», disse Dubreuil. I soldati stavano prendendo d'assalto gli autocarri e la folla si disperdeva. Erano in 5.000, forse in 10.000, a disputarsi l'ombra degli alberi morti e dei muri calcinati. Accovacciati nei fossi, mezzo sdraiati contro i veicoli, stavano ora tirando fuori le pagnotte e le bottiglie di vino rosso. Ora che i morti erano stati adeguatamente rimpensati di discorsi, di fiori e di musiche militari, i vivi mangiavano. «Mi chiedo dove potremmo metterci», disse Anne. Dopo la dura tappa del mattino, avevano voglia di sdraiarsi al fresco, di bere acqua gelata. «Quei tavoli laggiù sono all'ombra», disse Dubreuil indicando dei lunghi tavoli installati contro una baracca di legno. Era un ristorante e la gente si strinse un po' sulle panche per far posto. Henri sedette di fronte ai Dubreuil, accanto a una donna dai pesanti veli di crespo e dagli occhi orlati d'orzaioli rossi. La gente mangiava in silenzio, e la loro ghiottoneria contegnosa ricordava a Henri i funerali di campagna a cui aveva assistito da bambino. Ma erano centinaia qui, centinaia di vedove, d'orfani, di parenti in lutto, che mescolavano al sole le proprie sventure e l'odore della propria traspirazione. Un vecchio che gli sedeva accanto passò a Henri una bottiglia di vino rosso. «Versatele da bere», disse indicando la donna dagli orzaioli. «È la vedova degli impiccati di Saint-Denis». Henri versò da bere alla vedova senza osare guardarla. Si voltò al vecchio. «Sono stati i paracadutisti a bruciare Vassieu?» «Sì, sono venuti in 400. Capirete, non gli è stato difficile. È Vassieu che ha avuto più morti, e così ha diritto al grande cimitero». «Il grande cimitero per tutto il Vercors», disse con fierezza la donna seduta di fronte al vecchio. Tutti intorno alla tavola le lingue s'erano sciolte e agitavano ricordi d'orrori tra una sorsata e l'altra di vino rosso. A Saint-Roch i tedeschi avevano chiuso uomini e donne nella chiesa. Poi, dopo aver appiccato il fuoco, avevano permesso alle donne di uscire. Due non erano uscite. «Torno subito», disse Anna alzandosi. «Io...» Svenire, piangere, vomitare. Le donne hanno questa risorsa, sebbene neanche questo serva a niente. Di fronte ai morti, niente serve a niente. Risalirono in bicicletta. L'aria bruciava come se il villaggio stesse di nuovo bruciando. Due contadine vestite a lutto e con le scarpe bianche di polvere s'affrettavano, le braccia cariche di rose rosse. Henri le seguì con gli occhi. Si chiese se anche le donne di Saint-Roch andassero a portar fiori sulle ceneri dei loro mariti. Era probabile. Erano certo diventate vedove rispettabili, o la gente se le mostrava a dito. E dentro di sé, come s'erano accomodate? Avevano dimenticato un po'? Molto, niente affatto. Un anno è breve, è lungo. I compagni morti erano ben dimenticati, dimenticato quell'avvenire che le giornate d'agosto avevano promesso. Meglio così, è malsano ostinarsi nel passato. Eppure non si è fieri di se stessi quando ci si accorge d'averlo più o meno rinnegato. Così si è inventato questo compromesso: commemorare. Quel che ieri era sangue, oggi è vino rosso discretamente salato di lacrime. In questo modo molti si tranquillizzavano, ad altri doveva sembrare odioso. Supponiamo che una di quelle donne avesse amato suo marito d'amore. cosa se ne farebbe delle fanfare e dei discorsi? Henri guardò fissamente le montagne rossastre. La vedeva. In piedi davanti allo specchio, s'aggiustava i veli. Le fanfare suonavano. E lei gridava: «Non posso. Non voglio». Le rispondevano: «Bisogna». Le mettevano rose rosse nelle braccia. La supplicavano in nome del villaggio, in nome della Francia, in nome dei morti. Fuori la festa cominciava. Lei si strappava i veli. E allora? La visione svanì. «Ma no», si disse Henri, «ho deciso di non scrivere». Ma non si mosse. E il suo sguardo restò fisso. Aveva assolutamente bisogno di decidere cosa sarebbe stato di quella donna. Henri rientrò a Parigi prima di Paul, si installò in un albergo vicino al giornale e siccome l'Espoir viveva a rilento in quell'estate torrida, passava lunghe ore a scrivere. «È divertente scrivere un lavoro di teatro», si diceva. Quel pesante pomeriggio rosso di vino, di fiori, di calura e di sangue era diventato un lavoro di teatro, il suo primo lavoro di teatro. Paul accettò senza protestare l'idea che Henri avrebbe ormai passato una parte delle proprie notti all'albergo. Ma la prima volta che questo accadde, Henri la trovò poi con gli occhi così profondamente cerchiati che dovette decidere di non ricominciare. Tuttavia, il fatto di potersi rifugiare di tanto in tanto nella sua camera gli dava l'impressione d'essersi un po' liberato. La situazione dell'Espoir però restava precaria e Henri si preoccupò seriamente quando, un giovedì, scoprì che la cassa era vuota. Ma Luc si burlò di lui, accusandolo d'avere per le questioni di denaro una mentalità da piccolo bottegaio. Il sabato, infatti, Luc trovò modo di pagare il personale. Un anticipo su un contratto di pubblicità, spiegò. Non ci furono altri allarmi. Un giorno Henri chiacchierava del più e del meno con Samazel, che era venuto a portargli un articolo. «Voglio farvi una domanda indiscreta», disse Samazel sorridendo largamente. «Come riesce a vivere l'Espoir con una tiratura così limitata?» «Non abbiamo fondi segreti», disse Henri gaiamente. «La spiegazione è che oggi accettiamo molta più pubblicità d'una volta. I piccoli annunci, tra l'altro, costituiscono una grossa risorsa». «Credo di avere un'idea abbastanza esatta delle vostre entrate di pubblicità», disse Samazel. «Ebbene, secondo i miei calcoli, dovreste essere nettamente in deficit». «Deve esserci un errore nei vostri calcoli», disse Henri in tono leggero. «Già, bisogna ben supporlo», disse Samazel, ma non aveva l'aria molto convinta. E Henri, quando si ritrovò solo, andò in sala di redazione, dove Luc stava facendo dei conti. «Senti un po', se hai un minuto, diamo insieme una guardata ai registri. Preferirei capirne un po' di più della nostra situazione finanziaria». «Ma sono in pieno lavoro», disse Luc. «Posso aspettare», disse Henri sedendosi sul bordo della grande tavola. Luc era in maniche di camicia e Henri restò un pezzo assorto nella contemplazione delle sue bretelle, delle bretelle gialle. «Andiamo, fammi vedere questi libri. Perché non vuoi?» Luc disse irritato. «Non c'è tutto nei libri». «È appunto questo che mi interessa», disse Henri vivamente. «Quello che non c'è!» Sorrise. «Cosa mi nascondi? Hai fatto debiti?» «Ma no, tu me l'hai proibito», brontolò Luc. «E allora che altro? Hai ricattato qualcuno?» disse Henri scherzando solo a metà. Luc scosse la testa. «Come? Adesso farei dell'Espoir un giornale di ricatti? Tu non dormi abbastanza!» «Senti», disse Henri, «gli indovinelli non mi piacciono per niente. Non voglio che l'Espoir viva d'espedienti. Tieniti i tuoi segreti, ma io telefonerò domani stesso a Tarieux». «Ah, allora sei tu a far ricatti». «Non è un ricatto, è semplice prudenza. Il denaro di Tarieux, capisci, so già che colore ha, mentre quei soldi caduti per miracolo nella cassa giovedì scorso non so di dove vengano». Luc esitò. «Erano un contributo volontario». «Non si regalano così delle somme simili. Un regalo di chi?» «Ho promesso il segreto. Non dirai che te l'ho detto?» disse Luc incerto. «Me lo prometti? Te lo giuro sulla tua stessa testa!» «Ebbene, è Vincent!» Henri guardò stupefatto Luc che si guardava i piedi. «Vincent ha arraffato l'oro di certi dentisti collaborazionisti. Non ci vedo niente di male. Se hai paura d'essere accusato di complicità, rassicurati, ho preso le mie precauzioni!» «Ma non capisci che accettandola hai incoraggiato a ricominciare? Quante volte ci ha già rimesso a galla?» «Tre volte. E ti immaginavi che la cosa potesse continuare? Sei più matto di lui!» Henri s'alzò e andò alla finestra. In maggio, quando aveva saputo che Vincent aveva fatto entrare Nadine nella sua banda, s'era arrabbiato seriamente con lui e l'aveva spedito per un mese in Africa. Al ritorno Vincent gli aveva assicurato d'aver messo la testa a partito. Ed ecco qua. «Bisogna che trovi il modo di fargli paura», disse. «Ma hai promesso il segreto», disse Luc. «Vincent mi ha fatto giurare che non l'avrei detto a nessuno e soprattutto non a te».